Liberi Dentro ed Uradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Lunedì 19 aprile, buongiorno a tutte e tutti, siete su Liberi Dentro ed Uradio, il nostro programma che parla al carcere, alla città di Bologna, ma anche alla regione Emilia-Romagna, e oggi sono con Ignazio De Francesco da Montesole, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti. E con Antonella Cortese, che a cui do il buongiorno e il benvenuta perché sarai con noi come co-conduttrice con me fino al 30 di giugno. Quindi buongiorno e benvenuta su Eduradio. Grazie Caterina e buongiorno a tutti. Allora, io apro le notizie di oggi sempre facendovi un po' da redattore sociale e vi racconto una storia. È la storia di un detenuto che ha inventato e brevettato Riselda, il primo cassonetto intelligente. Leggo questa notizia di Luigi Ferrarella e su questa storia che è veramente incredibile, perché dal carcere possono nascere delle invenzioni che fanno bene a tutti, fanno bene all'ambiente. E quando nel 2015 fu arrestato al carcere di Firenze, questo detenuto, che si chiama Fernando Gomez da Silva, la sua passione era quella di mettere da parte ingranaggi, perché il suo mestiere prima era fare l'elettricista. E chi se lo sarebbe aspettato che un giorno inventasse Riselda? L'idea viene dal nome di sua mamma, che si chiamava così, ed è quella di un cassonetto intelligente che ha la funzione di pesare, tracciare, produrre informazioni personalizzate sui rifiuti prodotti da ogni utente, dotato di una card personale, stampando un adesivo con un codice a barre per i vari tipi di rifiuto, indifferenziato, plastica, carta oppure organico. Ed è quindi anche una base per premiare tanti comportamenti virtuosi di cui ora c'è assolutamente bisogno per la raccolta differenziata dei rifiuti. Ma la storia veramente sconvolgente è che l'idea di Riselda nasce come un modellino, come un modo per intrattenersi di Fernando, che poi è messo a punto e presentato sotto gli occhi dell'università, è stata battezzata come brevettata come idea invece utile per l'utilità sociale. E poi Fernando, trasferito al carcere di Bollate a Milano, ha formato con altri detenuti l'associazione Keep the Planet Clean, quindi rendi pulito l'ambiente, ed ecco che Riselda è diventato una maniera per promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti nel carcere. Ora io vi segnalo che se volete sostenerla questa idea con il crowdfunding, il Comune di Milano per raccogliere 8.000 euro per portare questa esperienza da dentro al carcere a fuori, quindi fatelo, perché in qualche modo, e anzi insomma noi lo speriamo, dal carcere possono nascere veramente buone idee e buone prassi per tutti. Ma io do la parola a te adesso, Antonella, perché ci parli del periodo di Ramadan che è cominciato il 13 di aprile, quindi facciamo gli auguri a tutti, Ramadan Karim, a tutti quelli che stanno festeggiando, insomma stanno celebrando questo periodo, ce ne parli tu. Grazie Caterina, e sì, oggi io voglio parlarvi proprio del Ramadan, perché siamo nel pieno del Ramadan, che nel calendario islamico però parte in giorni diversi in realtà. Il Ramadan, come sappiamo, è il nono mese dell'anno, di 29 o 30 giorni, in base all'osservazione della luna crescente. Quest'anno, secondo il Centro Astronomico di Karachi, la maggior parte dei paesi avrebbe dovuto cominciare il Ramadan il 13 aprile. Inoltre c'è un quotidiano che si chiama Khaleji Times, che aveva anticipato che alcuni paesi avrebbero avuto la luna crescente in anticipo, e quindi per esempio Indonesia, Malesia, Iran, Arabia Saudita, Giordania, Siria, Libia, Algeria, Marocco, avrebbero cominciato appunto prima, quindi il 12, e mentre la Turchia, l'Iraq e la Tunisia l'11. C'è da dire una cosa che a me è piaciuta moltissimo, che spiritualità e natura camminano a braccetto. Infatti i fedeli non possono che aspettare che la luna si faccia vedere prima di iniziare le celebrazioni. Ma quest'anno, come lo scorso anno, purtroppo c'è anche, diciamo, una difficoltà, che è quella della pandemia. Le misure restrittive ci sono state anche per i pellegrinaggi alla Mecca, ovviamente. L'Arabia Saudita ha infatti deciso che solo le persone vaccinate contro il Covid-19 possono partecipare all'Umrah, il cosiddetto pellegrinaggio minore, alla Mecca ovviamente, in programma all'inizio del mese, che è cominciato appunto a metà aprile. Il nuovo ministro del Hajj, il pellegrinaggio maggiore, che invece si svolge una volta l'anno, ha dichiarato infatti che solo i fedeli e i pellegrini immuni al coronavirus possono essere autorizzati a seguire l'Umrah e le preghiere alla grande moschea della Mecca. Questo provvedimento include coloro che hanno ricevuto due dosi di vaccino, ovviamente, oppure chi ne ha ricevuta una, ma siano passati 14 giorni. Insomma, i numeri sono ovviamente cambiati. I pellegrini che nel 2019 avevano partecipato erano 25.000, lo scorso anno inizialmente erano soltanto 6.000. Purtroppo quindi ci sono queste restrizioni che limitano tantissimo anche i momenti di preghiera e i momenti di gioia. Infatti, il nostro augurio va anche a tutti i musulmani che purtroppo dovranno astenersi un po' nei contatti sociali, quelli serali, al tramonto del sole e potranno quindi condividere relativamente con amici e parenti il momento di riposo e di condivisione. Gli siamo vicini e gli facciamo i nostri migliori auguri comunque. Antonella, e quale canzone dedichiamo ai nostri ascoltatori oggi? Allora, ho pensato ad una canzone gioiosa prima di tutto, perché è cantata dai bambini che portano gioia e purezza di cuore e cantano in effetti la pace nel mondo e la felicità ed è un messaggio che accompagna il Ramadan. Eccoci, bentornati su Liberi Dentro Eduradio. Come di consueto, il nostro ospite adesso è Ignazio De Francesco da Montesole. Ignazio, con te abbiamo affrontato sempre il Galateo arabo, ma questa volta parliamo di viaggi. Ci porti fuori dalle nostre case o dalle celle o dalle camere detentive o da dove siamo per parlare del tuo incontro con Gerusalemme. Sì, è una cosa che risale ormai a 22 anni fa. Non ero mai stato in Medio Oriente, ovviamente l'incontro con Gerusalemme è stato qualcosa di stratosferico. Tra l'altro, mentre Antonella parlava, mi è venuta in mente la rottura del Giro, la fine del mese di Ramadan a Gerusalemme, quando tutta la città, fatta di musulmani della città, uomini, donne e bambini, si riversavano per andare a fare la preghiera alla moschea dell'Aqsa, questo senso di questa comunità in preghiera. Però Gerusalemme non è fatta solo di musulmani, noi abitavamo allora, in quel momento stavamo in quello che era il sito chiamato Ras Al Amud, dove c'era, sarebbe stato anticamente il palazzo delle concubine del re Salomone. Da lì si vede bellissima la vecchia città di Gerusalemme, che è un mondo fatto di mondi. Perché quando tu entri da Gerusalemme, vuoi dalla Porta di Leone, vuoi dalla Porta di Damasco, vuoi da Babesdi, della Porta Nuova, e tu ti immergi in poche centinaia di metri, come se viaggiassi per migliaia di chilometri in aereo. Voi incontrate il quartiere armeno sulla destra, poi c'è il quartiere dei siriani, grandi amici, siro-ortodossi, siro-cattolici, sul tetto del Santo Sepolcro ci sono gli etiopi. E poi c'è il quartiere ebraico con il muro del pianto, e poi c'è la moschea dell'Aqsa, e poi ci sono i pellegrini cristiani, ebrei di ogni fede che si incontrano per queste viuzze. Quindi è veramente una specie di tuffo nella storia che mostra quanto sia meraviglioso il concerto del mondo, il concerto delle religioni e delle culture. Ignazio, è tutto così bello, ci hai fatto viaggiare dappertutto, ma ci sarà stato qualche problema, qualcosa che magari non andava? O è tutto così rosa? Beh, direi no, c'è Rosa con tanto dolore sotto, che è il tema della guerra israelo-palestinese, questo grande nodo di cui parliamo però domani, entrando più direttamente in Palestina. Qua mi è fatto venire in mente questo episodio, una piccola cosa. Dunque, c'è il quartiere ebraico dentro le mura, poi c'è il quartiere ebraico, come sapete, Mea Shearim, come tanti sanno, fuori le mura. E un sabato passeggiavamo per Mea Shearim, dove ci sono i famosi ebrei con il codino, cioè gli ebrei ortodossi, no? E inizia a venirci dietro, eravamo 4-5 monaci, un gruppetto di ragazzini, ma cose di 5, 6, 7, 8 anni, che ci gridano in ebraico: andate via, andate via, andatevene. E allora ci giriamo, un nostro fratello che sa bene l'ebraico, ha detto: ma perché dobbiamo andarcene? E loro hanno detto: perché voi ci avete sempre uccisi. E allora questi bambini così piccoli mi hanno fatto fare questo tuffo nelle storie, nelle cattiverie della storia anche del cristianesimo, del regime di cristianità. Gesù era uno che porgeva l'altra guancia, ma poi nei secoli quante volte i cristiani hanno usato le armi per perseguitare, per costringere, per uccidere, per cacciare dalle case. E quindi tutta questa storia di dolore che si è riversata in gran parte anche sugli ebrei, sono stati uno degli obiettivi e che ha modellato la storia. Il mondo che noi conosciamo oggi è fatto anche dal grido di questi bambini. Grazie Ignazio per averci portato oggi a Gerusalemme, vedremo domani dove ci porterai. E io a metà mattina lancio un brano di Frank Sinatra, famosissimo, in realtà è stato composto da Dean Kay e Kelly Gordon e poi interpretato da Frank Sinatra e vari autori, That's Life, cioè Questa è la vita, perché tutta questa settimana ci accompagnerà lui e la scelta musicale è un po' mirata per quegli autori anche molto famosi, cantanti, attori come lui, anche comici, che però hanno vissuto un'esperienza in carcere incredibile, Frank Sinatra per l'accusa di avere una relazione con una donna sposata, poi tutto decadde con un'accusa sostanzialmente di adulterio e il decadimento di ogni accusa sostanzialmente per il carcere stesso. Ascoltiamolo, That's Life. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. That's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing, each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing, each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. That's life. And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball. And ciao a tutti, io sono Fabio. E io Lorenzo. Oggi parliamo con Stefano Cavallini, il presidente del Giallo Dozza, che è la squadra di rugby del carcere di Bologna. L'intervista è stata realizzata in collaborazione con Tecnotrade, l'agenzia di comunicazione di Bologna. Vai con la pillola. La prima domanda che io ti faccio, Stefano, è se ci racconti come è nato il progetto Giallo Dozza, diciamo i suoi albori, e da quali energie, in quale contesto è nato, diciamo, generalmente. Noi cominciamo a lavorare a questo progetto alla fine del 2013. Io vengo da un'esperienza al CUS di Ferrara e il mio partner è il presidente del Bologna 1928. Bologna conosce prima di me questa esperienza, la prima in Italia, che è quella di Torino, il carcere di Torino, cui venne formata un'associazione che si chiamava La Drola. Parlammo con La Drola e decidemmo di provare a fare questa cosa anche a Bologna. Avevamo i primi incontri di natura istituzionale con il provveditorato regionale, che è quello che sovrintende le carceri dell'Italia. E poi arrivammo a parlare con la direzione del carcere. Ci furono alcune coincidenze fortunate. La prima coincidenza fu che il provveditore dell'Emilia Romagna, prima di arrivare qua, era il direttore del carcere di Torino. Ed era stato lui a promuovere insieme con La Drola quell'esperienza torinese. Ecco, è stata la prima di questo tipo in Italia. La prima in Italia in assoluto, sì. Ok. In assoluto. La seconda fortuna fu che la direttrice del carcere di Bologna, particolarmente legata come esperienza professionale al direttore di Torino, ci accolse, diciamo, in maniera positiva, anche se non lo dette a vedere immediatamente. Ok. Alla fine della primavera del 2014 incontriamo il carcere e in un primo tempo ci pare che ci prendano come dei matti. Ma siete sicuri che volete fare una roba così, eccetera? Gli abbiamo spiegato quello che volevamo fare. Loro finsero di cadere dalle nuvole, ma in realtà sapevano già tutto, perché venivo dall'esperienza torinese, per cui fu una specie di gioco delle parti. Okay. Le cose si infilarono subito bene, perché molti detenuti che erano dislocati in diversi reparti del carcere ci stettero, presero per buona la sfida, presero talmente buona che, ragionando con i vari operatori, decidemmo di iscriverci al primo campionato di Serie C. E a novembre cominciamo il primo campionato. Furono prime partite problematiche. Abbiamo preso delle gran pagate. Ma poi cominciamo a giocare davvero e da allora non abbiamo più smesso. O meglio, ci ha fatto smettere il Covid l'anno scorso. nel frattempo abbiamo cambiato tantissimi giocatori, tantissimi detenuti hanno finito la pena, se ne sono andati. Come si dice, è un po' una fatica di Sisifo. Ecco. Perché abbiamo a che fare con dei ragazzi che non hanno mai visto la pallovale, a volte nemmeno per televisione, ce n'è poco di pallovale in televisione. E imparano, incominciano a giocare, ad entrare nelle dinamiche e poi diventano dei giocatori, però la pena gli finisce e quando finiscono tornano a casa, molti di questi sono stranieri e hanno l'espulsione, per cui portano nel cuore l'esperienza, perché l'importante è l'esperienza. Il rugby è un pretesto, chiaramente un pretesto, uno strumento che serve a. E allora il ragionamento che abbiamo sempre fatto è quel: a cosa serve? E se serve, soprattutto se serve, serve a, noi pensiamo, cambiare la testa di questi giovani, mettere nella loro testa qualcosa che prima non avevano, per esempio delle regole, per esempio il sentirsi parte di un tutto. Chiaro. Avere in testa qualche pensiero positivo e cogliere degli aspetti legati alla disciplina, un modo per sopravvivere all'interno del carcere, ma anche un modo per affrontare il dopo carcere con alcuni valori che sono diventati parte del loro modo di pensare. Chiarissimo, chiarissimo. E io ti volevo chiedere anche a te, Stefano, personalmente, a parte il progetto, diciamo, nel suo insieme, a te personalmente cosa ti ha spinto a prenderti, diciamo, questo impegno? Ma guarda, io, per la mia esperienza di vita, io sono anzianotto, la mia esperienza di vita è stata di impegno politico e di impegno nel volontariato. Poi la passione per il rugby sommata ha fatto sì che questa cosa nascesse. Io avevo finito l'esperienza nel rugby di Ferrara e, come si dice, ero in attesa di sviluppi, e questa è stata un'occasione che mi rende particolarmente energetico, diciamo così. che per oggi il nostro intervento termina qui. Ci rivediamo presto con nuove pillole di approfondimento da chi vive per chi vive il carcere. Non dimenticatevi come sempre di scrivere Liberi Dentro Edu Radio sui social, Instagram e Facebook, se avete qualsiasi domanda o richiesta per le prossime puntate. Ciao a tutti. Rieccovi, bentornati su Liberi Dentro, dopo aver ascoltato le parole del presidente della squadra di rugby giallo Bologna Dozza, forse vi sarete emozionati, l'abbiamo anche trasmesso a Natale, e vi aspettiamo con i laboratori subito dopo oggi pomeriggio alle 17 su Teletricolore e subito dopo questa puntata sempre su Lepida con AVOC, scrittura della vita. Scriveteci, mi raccomando, liberidentro.duradio@gmail.com oppure Chiesa Santissima Annunziata, via San Mamolo 2, 40, 136 Bologna. Buona giornata e noi ci rivediamo domani sempre qui su Liberi Dentro. Liberi Dentro Edu Radio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.